Io sono un istrione, ma la genialità è nata insieme a me. Nel teatro che vuoi, dove un altro cadrà, io mi surclasserò. Io sono un istrione, ma la teatralità scorre dentro di me. Quattro tavole in croce e qualche spettatore, chi sono lo vedrai, lo vedrai. In una stanza di tre muri tengo il pubblico con me, sull'orlo di un abisso oscuro col mio track e coi miei tic, e la commedia brillerà del fuoco sacro acceso in me, e parlo e piango e riderò del personaggio che vivrò. Perdonatemi se con nessuno di voi non ho niente in comune. Io sono un istrione a cui la scena dà la giusta dimensione. La vita torna in me ad ogni eco di scena che io sentirò, e ancora morirò di gioia e di paura quando il sipario sale. Paura che potrò non ricordare più, la parte che so già. Poi quando tocca a me, puntuale sono là, nel sogno sempre uguale, uguale. Io sono un istrione ed ho scelto oramai la vita che farò. Procuratemi voi sei repliche in città e un successo farò. Io sono un istrione e l'arte, l'arte sola è la vita per me. Se mi date un teatro e un ruolo adatto a me, il genio si vedrà, si vedrà. Con il mio viso ben truccato, con la maschera che ho, sono enfatico e discreto, versi e prosa vi dirò con tenerezza o con furore, e mentre agli altri mentirò fino a che sembri verità, fino a che io ci crederò. Non è per vanità, quel che valgo lo so, e ad essere sincero sono un vero istrione, è grande come me ed io ne sono uno.